tasca quel che ho, son mille lire. Ma più di mille sono i miei perché so cose che mi stanno chiuse in cuore. Vorrei poterle aprire insieme a te e forse poi provare a far l'amore. Ebbene, fino a quando non c'è say.